カメラ猫一家。 Vivere semplicemente di memoria non serve.Se noi vogliamo veramente onorare coloro che sono morti nella lotta di liberazione, dobbiamo lottare oggi per realizzare quegli ideali che erano alla base di questa grande battaglia. Oggi...

I'm gonna go get some.

Dream my love.